Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. No, ma poi una donna non deve mai chiedere scusa, non c'è problema, si figuri. Questa è la galanteria, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, del presidente del CONI Malagò, che oggi, quando gli hanno chiesto, ma ieri la sindaca Raggi che non si è presentata all'incontro che dovevate avere sulla candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024, lei che cosa risponde? Deve chiedere scuse? Lui dice no, in realtà una donna non deve mai chiedere scuse, ricorda al contrario una pubblicità che riguardava invece gli uomini che non dovevano chiedere mai, vi ricordate, più o meno negli anni 80, 70. E poi c'è stato addirittura un baciamano oggi di Malagò con la sindaca Raggi. Intanto vedo Renzi a 8:30, vogliamo sentire un attimo cosa dice? Sulla 7? Forse ce la facciamo. Il tecnico, ecco, di Milano, il professor Azzone, e ho chiesto a tutte le forze politiche, dalla destra radicale alla sinistra radicale, sul tema della sicurezza dei nostri figli. Possiamo non dividerci? Vabbè, sono tanti temi, poi ne parleremo, anche perché ha toccato la questione del Fertility Day, che è un altro tema di oggi, appunto, visto che oggi è la giornata nazionale per la campagna della fertilità. Ancora polemiche, Lorenzin che dice, la ministra, non è piaciuta neanche a me questa campagna, ma voi non sapete, ha detto, come funzionano le gerarchie qui, chi decide, eccetera. Comunque ha diciamo defenestrato il direttore della comunicazione. Tra poco poi sentiremo anche un pezzetto di intervista nostra alla ministra. E poi c'è la vicenda di Brad Pitt e di Angelina Jolie, non solo la fine di un amore, ma è finito anche in modo un po' brutto, tragico, triste, come vogliamo dire, perché sembra che lui sia stato accusato di aver maltrattato e picchiato i figli, ci sarebbe un'indagine a suo carico, però la polizia di Los Angeles ha smentito in serata. Tantissimi temi di varia natura, e voi come sempre potrete intervenire sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia attraverso il numero per WhatsApp e SMS, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Ma cominciamo con il riassunto della giornata. Roma, dopo il no alle Olimpiadi, tutti soddisfatti per Euro 2020, il numero uno del CONI Malagò fa il baciamano alla sindaca Raggi. Fertility Day, polemiche e web scatenato sulla nuova campagna, la ministra Lorenzin va al contrattacco, non mi è piaciuta neanche a me, ma molti vogliono il mio posto. Italicum, Renzi a 8:30, pronto a cambiarlo qualunque sia la decisione che prende il Parlamento. Stati Uniti, nuovi scontri a Charlotte con i manifestanti contro la polizia, accusata di aver ucciso ingiustamente un afroamericano. Intanto a Baltimora agenti bloccano a terra un nero che poi muore. Guerra commerciale Stati Uniti-Unione Europea, condanna del WTO per gli aiuti a Airbus. Sicurezza, attacco hacker a Yahoo, violati 200 milioni di account. La fine dell'amore Jolie Pitt, accuse a Brad, ha aggredito i suoi figli in aereo, la polizia smentisce però il sito TMZ dicendo che non ci sono indagini sull'attore. E poi infine lutto nel cinema, è morto Gianluigi Rondi, padre del Davide Donatello, decano dei critici, aveva 95 anni. Partiamo quindi da Roma, il giorno dopo il no della sindaca Raggi alla candidatura appunto della capitale per le Olimpiadi 2024. Raggi si dice oggi però orgogliosa di ospitare gli Europei 2020. Tra Virginia Raggi e Giovanni Malagò resta il gelo dopo il no della sindaca alle Olimpiadi a Roma. I due oggi si sono incontrati per un vertice sugli europei di calcio del 2020, un'occasione importante per la capitale, ha detto la prima cittadina che, nonostante le polemiche, è stata accolta con un baciamano dal presidente del CONI. Sono contenta di poter dire che Roma ospiterà una serie di partite, 4 partite degli europei di calcio del 2020. Sapere di ospitare un evento così importante dello sport ci rende orgogliosi. Malagò dal canto suo ha escluso l'ipotesi di portare avanti la candidatura anche senza il sostegno del comune, come è avvenuto in altre città straniere. L'umore è buono perché sono una persona serena. Quando uno ha il senso del dovere e delle responsabilità non può che essere in questo modo. È chiaro che c'è un'amarezza infinita. Il Campidoglio intanto fa sapere che, se citato per danno erariale, è pronto a sua volta ad azioni legali. Martedì l'Assemblea Capitolina voterà la mozione presentata ieri per ritirare la candidatura. Subito dopo Raggi invierà una lettera al CIO per spiegare le ragioni del no ai giochi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi ovviamente ci ritorniamo su questo tema. A Roma intanto c'è stata anche la protesta dei giovani contro il Fertility Day, che si celebra oggi, voluto dalla ministra Lorenzin. Contano i fatti, vogliono il mio posto, la controreplica del responsabile del Dicastero della Salute. Allora sentiamo un'intervista della ministra Lorenzin al microfono di Enza Loddo. Noi viviamo in un mondo assai singolare per quanto riguarda la comunicazione, quindi in realtà io come ministro e come politico sono abituata alle polemiche, ma mi piace però continuare a fare il ministro e parlare dei fatti. I fatti sono che ci sono in questo momento 700.000 persone che stanno cercando di avere un figlio e non ci riescono e quindi stanno soffrendo per motivi di infertilità. Queste persone vanno supportate con una serie di informazioni, bisogna dirgli da chi andare, a cosa aspettarsi e soprattutto anche informarle delle possibilità che la scienza mette a loro disposizione e che io ho inserito nei nuovi LEA, cioè reso gratuito come trattamento le terapie per la procreazione medicalmente assistita, sia omologa che eterologa, e anche tutti gli esami diagnostici a cui una donna si deve sottoporre prima di ogni trattamento. Questo non è banale, se lei pensa che una coppia che ha accesso a queste terapie in una regione del nord in cui sono gratuite, non paga niente o un ticket molto ragionevole, una coppia per esempio che deve accedere a queste terapie in una regione che non le concede pubblicamente viene a spendere 40, 50, 60 mila euro, e questa è una discriminazione odiosa, enorme per chi ha una sofferenza legata all'infertilità. E ora l'Italicum, Renzi a 8:30, dove ancora ha detto: se il Parlamento è disponibile a riformare la legge elettorale noi ci stiamo, mi colpisce un po' che qualcuno vuole il proporzionale puro da prima Repubblica e rischia gli inciuci, si riferisce al Movimento 5 Stelle che ha proposto la mozione qualche giorno fa, sono disponibile a cambiarla, dice, qualunque sia la decisione che prende il Parlamento. E ora il nuovo affondo del Presidente della Commissione Europea Juncker all'Italia. L'Unione Europea va très mal. È uno humor amaro quello a cui ricorre il presidente della Commissione Europea Juncker intervenendo al Comitato Economico e Sociale. Oggi sto come l'Europa, zoppico perché ho la sciatica. E non è solo una metafora, perché lo stesso Juncker ha ad aggiungere poco dopo: l'Unione Europea va molto male, le rotture e le crepe sono numerose e sono pericolose. Poi elenca i problemi a partire dalla disoccupazione troppo alta fino all'immigrazione. Qui cita l'ex commissario Frattini: 9 anni fa Bruxelles presentò una proposta per la protezione delle frontiere esterne, ma l'interesse dei paesi membri è arrivato solo adesso. Da Juncker lodia l'Italia su questo fronte critico, fa meglio della Grecia perché ogni giorno salva migliaia di vite nutrendo e ospitando i profughi, ma pure una frecciata quando ricorda: grazie alla flessibilità introdotta nel patto di stabilità, che non è stupido, l'Italia ha potuto spendere 19 miliardi in più, abbiamo introdotto la clausola per gli investimenti e Roma è l'unica che ne beneficia. Intanto nelle ultime ore un altro imbarazzante scandalo ha colpito Bruxelles, dopo il controverso incarico di superconsulenza dell'ex presidente della Commissione Barroso con Goldman Sachs. Alcuni quotidiani hanno rivelato che l'ex commissaria alla concorrenza Neelie Kroes si trovava a capo di una società offshore con sede alle Bahamas negli anni in cui lavorava all'istituzione comunitaria. Non ci aveva mai informati di questo. Questa è la replica della Commissione. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Unione Europea non ha eliminato i sussidi a Airbus, che già in precedenza erano stati ritenuti una violazione alle norme europee, lo afferma un comunicato del WTO, il World Trade Organization, cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio, esprimendosi nella battaglia tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti per gli aiuti a Airbus e Boeing. Per gli Stati Uniti questa decisione è una vittoria. Ancora all'estero con la Libia, le indagini in corso sugli italiani rapiti, mentre sul fronte politico ci sono delle nuove tensioni. Finora si è parlato di criminalità comune, adesso, per la prima volta da lunedì, giorno del rapimento dei 2 lavoratori italiani e del loro collega canadese, si fa il nome di Al-Qaeda. Il sequestro è stato compiuto da una banda criminale, ma per come è stato eseguito porta i segni lasciati in genere da Al-Qaeda, spiega il portavoce dell'esercito che fa capo al generale Haftar, rivale del governo di al-Sarraj. Proprio nelle stesse ore il Consiglio di Stato, con sede a Tripoli, dichiara di voler assumere il potere legislativo, prerogativa secondo gli accordi del Parlamento di Tobruk. Un tentativo di golpe, dicono dalla Camera dei Rappresentanti. Nessuno approfitti della fragile situazione che sta vivendo il paese, avverte l'inviato ONU per la Libia, mentre dall'Assemblea delle Nazioni Unite a New York arriva il monito. Nel corso del prossimo anno, il governo di accordo nazionale libico deve preparare una transizione pacifica verso un governo permanente ed eletto. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E negli Stati Uniti è stato reso noto il bilancio della seconda notte di scontri a Charlotte, in North Carolina. Sale il bilancio dei danni e delle persone coinvolte dopo la seconda notte di proteste per la controversa uccisione da parte della polizia di un afroamericano a Charlotte. Auto, vetrine e negozi devastati, 44 arresti, 9 feriti, come spiega in un aggiornamento ufficiale usando cautela il capo della polizia di Charlotte, Kerr Putney. Prima di tutto sono qui non per difendere una posizione ma per dare informazioni. La persona colpita da un proiettile si trova ricoverata in condizioni critiche. Stiamo indagando per capire chi è stato a sparare. Per il momento ha detto non c'è bisogno del coprifuoco in città. Dopo che il governatore dello stato americano della North Carolina ha decretato lo stato d'emergenza e dispiegato l'esercito nella città per le violenze, le autorità infatti cercano di rassicurare anche lo stesso sindaco Jennifer Roberts, che aveva parlato di coprifuoco. Stiamo lavorando, i trasporti funzionano, gli autobus vanno, siamo qui per servire, la città è aperta. La polizia però ammette il video della morte di Kate Lamont Scott non mostra in maniera chiara se la vittima, prima di essere colpita da un agente, ha puntato o meno una pistola verso i poliziotti. Alla famiglia sarà accordato di vederlo. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E come se non bastasse, è arrivata in serata la notizia di un altro afroamericano ucciso dalla polizia, il terzo in pochi giorni, questa volta nei sobborghi di Baltimora, dove dopo alcuni giorni di agonia è morto Tawan Boyd, 21 anni, a causare il decesso e le conseguenze di una colluttazione con 5 poliziotti che lo hanno immobilizzato a terra. Erano stati chiamati in un appartamento dove si diceva che lui aveva comportamenti strani e era comunque disarmato. La famiglia della vittima denuncia un uso eccessivo della forza da parte degli agenti. Arriva una notizia che parrebbe buona dal Medio Oriente. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu invita il presidente dell'autorità palestinese a intervenire alla Knesset, il Parlamento israeliano. Lo afferma Netanyahu intervenendo all'ONU. In cambio Netanyahu vorrebbe intervenire davanti al Consiglio della Palestina. Tra l'altro è stato proprio una sferzata che ha dato il presidente americano Obama in questi giorni dall'Assemblea Generale dell'ONU a Netanyahu, dicendo l'unica via è la pace, quella di due stati. Iraq, una notizia insolita per l'ISIS. L'ISIS nell'ultima roccaforte Mosul irachena, prossima ad essere attaccata dalle forze irachene, stando a una notizia diffusa dall'agenzia iraniana Far News, dall'inizio di settembre, per motivi di sicurezza, a Mosul gli uomini del califfo, proprio loro che si richiamano ai più rigidi dettami dell'Islam fondamentalista e oscurantista, hanno vietato il velo integrale alle donne per una questione di sicurezza, dal momento che varie donne coperte sono entrate nei comandi militari e di polizia e poi si sono fatti saltare in aria e hanno ucciso appunto uomini dell'ISIS. Parliamo di sicurezza cibernetica. I dati di almeno 500 milioni di utenti di Yahoo sono stati rubati nel 2014, lo afferma Yahoo, sottolineando che le informazioni rubate con il cyberattacco includono nomi, indirizzi email, numeri di telefono, date di nascita e password. Stiamo lavorando con le autorità, dicono da Yahoo. Fortuna che sono passati 2 anni e ne parleremo più tardi qui Effetto Notte per capire anche quali sono le implicazioni su noi normali utenti. E adesso le accuse invece a Brad Pitt: avrebbe aggredito i suoi figli in aereo, in un volo, in un jet personale. Il sito di gossip americano TMZ avrebbe parlato di un'indagine a suo carico per questo, però la polizia di Los Angeles smentisce che ci siano indagini sull'attore. Ne torneremo a parlare, anche perché non è solo una questione di gossip. Di nuovo in Italia si sposa il primo sindaco gay d'Italia, festa San Giorgio a Cremano vicino Napoli, cerimonia sabato 24, celebrerà la senatrice Monica Cirinà del PD, tutto pronto a San Giorgio a Cremano per le nozze di Giorgio Zinno con il compagno Michele Ferrante. Il matrimonio sarà celebrato sabato 24 settembre. E poi, per chiudere, un lutto nel cinema: addio alla sciarpa bianca del cinema italiano. È morto a 95 anni nella sua casa romana il decano dei critici cinematografici Gianluigi Rondi, presidente del Davide Donatello. Rondi era nato a Tirano, in Valtellina, il 10 dicembre 1921, aveva cominciato la carriera nel 1946, al tempo è stato direttore e presidente del Festival di Venezia e poi del Festival di Roma. E a questo punto vi ricordo che tra poco, dopo questo quadro esauriente della giornata, approfondirò come sempre con gli ospiti, dopo la viabilità, alcuni argomenti particolari. Voi sui vari temi potete esprimere le vostre opinioni, le vostre domande sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure i messaggi al 349-238-6666. Per esempio, vediamo questo messaggio, mi pare che arrivi sul Fertility Day. Ragazzi, quel cartellone può rappresentare anche uno scambio di coppie, due coppie bianche che si scambiano, così hanno più possibilità di procreare. A proposito di questo opuscolo che ha fatto un po', diciamo, andare maluccio anche questa seconda campagna del Fertility Day, con tutte le polemiche che ci sono state a partire già da ieri quando si è visto questo opuscolo e poi tutto il web che si è scatenato. Anche di questo parleremo. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo a momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi e adesso cominceremo ad affrontare alcuni argomenti in particolare con gli ospiti che saluterò a breve, e ci sono sempre i vostri messaggi, le vostre osservazioni tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il numero 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS. Un ascoltatore, Tonino da Civitavecchia, a proposito... Sentiamo un attimo se Renzi a 8:30 sta parlando di Gruber. I consiglieri sono pieni di inquisiti, sì, ecco, sì, non ci sono tante persone per bene che fanno politica, non dimentichiamocelo mai, perché sennò finisco sull'immunità, finiamo e vado sui nel sindaci. Populismo. Il tema dell'immunità è un tema, io difendo il fatto che ci sia l'immunità contro lo strapotere del governo sul Parlamento o della magistratura sul Parlamento, a condizione che questa sia regolata e disciplinata come sì, oggi. Sì, sì, ma scusi, questo, però sì. Per chi vuole ridurre l'immunità deve votare sì. Perché hanno 730 contro 945. Vabbè, naturalmente si sta parlando di referendum, che ormai il tormentone, dicevo, Tonino da Civitavecchia scrive: Pitt, Brad Pitt, 6 figli e la moglie lo accusano di aver alzato la voce e trattato male nell'aereo privato. Io ne ho due e se ogni tanto non alzo la voce mi mandano fuori casa, che devo ancora finire di pagare, Tonino. In realtà lì la questione sembra un po' diversa, poi ne parleremo, perché dicevo in realtà non si tratta solo di gossip, ma varie implicazioni che ci toccano un po' tutti, no? Rappresentano un modello, un simbolo, molti hanno guardato con un'aspirazione a qualcosa di più alto, di quasi perfetto. Ne parliamo però dopo, intanto vi ricordo quali sono le notizie principali. Malagò Raggi bacia mano e gelo, il piano B non si farà, dice Malagò a proposito delle Olimpiadi 2024, e frena su possibili alternative, appunto. E Renzi chiosa dicendo la vicenda è chiusa, l'ha detto poco fa a 8:30. E sempre il Presidente del Consiglio è pronto a ogni cambio sull'Italicum deciso dal Parlamento, quindi l'apertura definitiva. Il Fertility Day con la Ministra Lorenzina al contrattacco dopo le polemiche, molti vogliono il mio posto, e Renzi dice no alle dimissioni della Ministra, interviene naturalmente anche su questo perché sta parlando su tanti argomenti a 8:30. E poi il Presidente della Commissione Europea Juncker che attacca l'Italia, dice il patto di stabilità non deve essere un patto di flessibilità, abbiamo già introdotto molti elementi di flessibilità senza i quali l'Italia quest'anno avrebbe potuto spendere 19 miliardi di meno. E poi sempre alta tensione negli Stati Uniti a Charlotte, un uomo è in fin di vita, è uno stato di emergenza, gli scontri manifestanti con la polizia, in più la notizia arrivata poco fa che a Baltimora un altro afroamericano è morto perché è, diciamo, schiacciato da agenti che l'avevano bloccato a terra. E poi accuse a Brad Pitt, ha aggredito i suoi figli in aereo, la polizia smentisce però che ci siano delle indagini sull'attore, questa notizia era serpeggiata un po' tutto il giorno. C'è anche un aggiornamento sulla Roma in relazione a quanto pubblicato dall'agenzia Bloomberg in data odierna. La Roma smentisce l'ipotesi di cessione di una quota del club da parte dell'attuale proprietà, cioè da parte di James Pallotta. Dunque, siamo al day after, dopo la candidatura di Roma per i giochi 2024, ma siamo anche nel Fertility Day, il giorno della campagna per la fertilità, e poi ci sono le dichiarazioni di Renzi che in parte abbiamo sentito. Intanto saluto Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, bentornato Guido. Buonasera a voi. Quindi dicevo, questi un po' i tre temi che affronterei oggi. E ieri, come sappiamo, è arrivato il no definitivo della sindaca Raggi alla candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024. C'è stato poi un po' uno scontro, meglio forse un incontro mancato tra la sindaca e il presidente del CONI Malagò, perché sembra che lei abbia disertato. Insomma, un po' uno sgarbo al quale però oggi Malagò, da uomo galante qual è, anche da consumato seduttore, ha fatto il baciamano e quindi, insomma, diciamo, ha detto una donna non si deve scusare mai. Restano comunque divisi i due partiti, il fronte del sì e il fronte del no. Il fronte del sì, che era quello del CONI, quello del CIO e di molti altri che dicevano una grande occasione persa, e poi il fronte del no, quello della sindaca e di tanti altri che dicono invece sarebbe stata l'occasione per sprechi e magna magna e altri indebitamenti. Sentiamo giusto un passaggio, Guido, della sindaca Raggi di ieri in conferenza stampa. È dai responsabili dire sì a questa candidatura. È dai responsabili, l'abbiamo detto con forza in aula Giulio Cesare a giugno del 2015, eravamo in quattro. Lo abbiamo ribadito in campagna elettorale e lo diciamo qui oggi mantenendo una posizione. Non abbiamo mai cambiato idea, anzi abbiamo rafforzato la nostra idea sulla base degli ultimi dati. Ieri poi Malagò aveva parlato di un danno erariale di cui la Giunta Capitolina deve prendersi la responsabilità. Oggi Raggi ha replicato che se così fosse, se fosse addebitato questo danno erariale, sarebbero pronti delle azioni legali. Oggi, dicevo, a parte il baciamano, Malagò ha praticamente escluso che vi siano dei piani B. Sentiamolo. Teoricamente ci sono diversi piani B, perché nella storia delle candidature olimpiche ci sono molti paesi che hanno continuato a sostenere la candidatura quando ci sono stati dei problemi o nei comuni o nelle regioni o negli stati stessi, ma io dal primo giorno ho sempre sostenuto che questa strada non è una strada giusta, perché secondo me non è corretto, non è elegante e tra le altre cose credo che così come noi abbiamo acquisito in questi 3 anni che stiamo sostenendo la candidatura negli angoli del mondo molta credibilità per quello che è il Comitato Olimpio, per quello che è stato lo sport italiano, per quello che siamo oggi, perderemo questa credibilità. È una cosa, in inglese dice unfair, cioè una cosa proprio non da fare. E quindi noi non la vogliamo fare e con molto rispetto ci adegueremo a quello che è una decisione che onestamente la consideriamo profondamente ingiusta. Anche Renzi poco fa, 8:30, ha detto beh basta, no, la vicenda è chiusa, rispetto alla decisione che ha preso la sindaca, però non ha esitato a tirare una stoccata al Movimento 5 Stelle. Da quello che mi ricordo, ma può darsi che mi ricordi male, in campagna elettorale Virginia Raggi si era impegnata a fare un referendum, però credo che alla fine la titolarità è del Consiglio Comunale e del Sindaco, per cui se lei decide di far questo non mi sorprende, devo dire un po' mi amareggia. Mi amareggia una cosa essenzialmente, l'idea che si dà al paese che una grande opportunità come quella delle Olimpiadi non si possa fare perché c'è il rischio che qualcuno rubi. E questo atteggiamento è francamente impressionante. No, abbiamo anche proprio un altro file dove Renzi dice che praticamente il Movimento 5 Stelle ha ammesso di non essere in grado di gestire l'evento. Sentiamolo. I grillini avrebbero avuto 8 anni per sistemare Roma. E mi dispiace che abbiano deciso di no. Detto questo, rispetto, in bocca al lupo e si va avanti. Che dici, Guido Gentili? Che idea ti sei fatto di tutta questa vicenda, dei retroscena, perché qualcuno accusa la Raggi di aver voluto ricucire in questo modo con Grillo e quindi di aver dato in pasto i romani? Può esserci stato in quest'ultima fase anche questo, però va a ricordare alcuni fatti. Primo che la Raggi... Guido, ti si sente malissimo, perdonami. Vanno ricordati alcuni fatti. Dico, il primo è che la Raggi ha contestato. Guido, scusami ancora, vai e vieni, hai un fisso lì con te o sei al cellulare? No. Al cellulare. Provate... Senti? Sì, ecco, non ti muovere da così. Non ti muovere da così. Grazie. Dicevo che la Raggi ha conquistato il 67% dei consensi dei romani, quindi una percentuale, una vittoria molto alta. Molto alta, una vittoria assonante. E lo ha fatto durante una campagna elettorale in cui lei dal primo giorno ha detto no alle Olimpiadi. Poi, e ha detto anche, questo lo ha ricordato Renzi, che è la verità, che ha offerto la possibilità... Guido, perdonami, siccome ti si sente malissimo è un peccato perdere quello che stai dicendo, facciamo che ti richiamiamo un secondo, se metti giù, Vediamo se è un problema della linea, se è un problema del cellulare. Intanto arrivano sempre i vostri messaggi su vari argomenti. Per esempio dice questo ascoltatore, il manifesto della Lorenzini usa il linguaggio della pubblicità, non ci sono neri nella colazione del Mulino Bianco o sulle cartine delle sigarette, non c'è un rasta. Se li metti insieme è razzismo, separati invece sono gli stereotipi della pubblicità di tutti i giorni. Sì, effettivamente, per carità, è un'osservazione anche non peregrina, però accostandoli in questo modo e dividendo i buoni biondi e bianchi e dall'altra parte i cattivi così neri, è chiaro che salta all'occhio a chiunque, anche se l'intenzione probabilmente non era quella. Emanuele dice l'unico vero rilievo da fare al Fertility Day è l'uso dell'inglese per intitolare un'iniziativa del governo italiano, e questo è anche un altro punto di vista. Guido, scusa, riprendi allora. Ecco. Sì, ecco, meglio. Spero sì. Che ci sentiamo. Sì, ci sentiamo, ecco, molto bene. Volevo dire che la Raggi ha preso una grande vittoria. durante la campagna elettorale ha detto no alle Olimpiadi, ha, come ha ricordato Renzi, ha approfittato della possibilità di un referendum, che poi è una strada che secondo me colpevolmente si è persa per strada, perché si poteva fare un referendum che avrebbe, diciamo, chiarito meglio la situazione, e poi è arrivato il no ufficiale dopo un paio di mesi in cui sembrava profilarsi delle, diciamo, sembravano aprirsi delle strade con delle diverse posizioni all'interno del Movimento 5 Stelle e anche della nuova giunta Raggi. A me non sorprende questo no, credo che interpreti in parte, in grande parte, quello che è il sentimento anche dell'opinione pubblica romana, che sembra essere, diciamo, da alcuni sondaggi... Lei dice che è il 70% che è contrario ai romani. Insomma, io credo che, insomma, forse magari saranno il 55%, o forse saranno pari, però non vedo in giro, io non sento una grande popolarità su questa ipotesi delle Olimpiadi. Delle Olimpiadi, comunque, infatti. Da questo punto di vista va detto anche che è un'occasione persa, perché effettivamente sarebbe una grande operazione quella delle Olimpiadi. Abbiamo purtroppo alle spalle delle esperienze negative dal punto di vista organizzativo di questi grandi eventi, e quindi queste hanno pesato moltissimo, e forse magari, dico, se si fosse preparata meglio, diciamo, questa sfida, se si fosse fatto un referendum, forse raggiungeremo in modo diverso, però io non mi sento di propendere per l'una o per l'altra ipotesi, perché capisco che la situazione è oggettivamente complessa. Molto complessa. Guido, senti, abbiamo ancora pochi secondi, ma anche perché veramente, perdona, ti si sente male, ci deve essere qualcosa, magari prende male il cellulare dove sei. Giusto un commento sul Fertility Day. Io vorrei far sentire un attimo la ministra Lorenzin anche come si è difesa, per esempio, fra le altre cose. La campagna era proprio brutta, parliamoci chiaro. Allora, però io faccio il ministro, non faccio il comunicatore. Anche se mi piacerebbe moltissimo fare il comunicatore, poi oggi a fare il ministro si fa un po' tutto. Però per me, siccome mi interessa il messaggio e non la campagna, io ho subito detto prendiamo e la cambiamo, e abbiamo chiamato qualcuno che l'ha fatta. Poi purtroppo c'è chi è pervicace. Guido, come commenti? Diciamo, questa a proposito di nascita, è nata proprio male questa campagna, cioè molto travagliata. Sì. È nata male fin dall'inizio, questo è il secondo episodio che riguarda proprio la natura di questa campagna di marketing. Io credo che il problema ovviamente esiste, è un problema reale, quello, diciamo, demografico italiano. L'audio è un problema. È un problema reale che esiste. Però il governo deve risolverlo, secondo me, non tanto con delle campagne più o meno indovinate, in questo caso nemmeno neanche indovinate, ma dovrebbe resistere con degli atti politici e dei provvedimenti concreti. Vogliamo prendere l'esempio della Germania, che pure ha dei problemi di questo tipo. Ma anche della Francia, la Francia per esempio, no? Che aiuta moltissimo le famiglie. Vogliamo dire che noi abbiamo un sistema di welfare da terzo mondo, che non abbiamo gli asili nido, insomma abbiamo una serie di problemi, le giovani coppie, diciamo, non vengono premiate in nessun modo, perché a parte giustamente renderli consapevoli dei problemi legati alla fertilità, perché in un caso su due dipende dagli uomini, leggevo il 60% secondo il Censis di persone è inconsapevole delle questioni della fertilità, dei problemi, però come dici giustamente, come anche coloro che hanno protestato, insomma, prima di tutto il lavoro e poi anche la possibilità di avere e quindi questo significa scelte politiche, scelte di governo nei fatti concreti, e quindi sulla campagna, diciamo, di marketing che lascia il tempo che trova. In questo caso è anche sbagliata e non l'ho indovinata, e quindi, diciamo, abbiamo aggiunto il peggio da questo punto di vista. Grazie Guido Gentili. Grazie. Ciao Guido, voi. Ciao, buona grazie. Serata. Grazie. E mi scuso con gli ascoltatori, evidentemente c'era un problema del cellulare di poca presa dove era Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. A volte capita, la diretta e più di tanto non si può fare. Direi che per il momento ci lasciamo brevemente per questa pausa. Vedo un'altra notizia che riguarda il mondo del cinema. È morto il figlio di Mia Farrow, famosa attrice, è stata per tanti anni anche moglie di Woody Allen, si è suicidato. Tadeusz Wilk Farrow, il figlio 27enne di Mia Farrow, si è suicidato. Il ragazzo è stato trovato nella sua auto, ferito, trasportato in ospedale dove poi è morto. L'autopsia condotta ha rivelato che il ragazzo si è suicidato. Bene, adesso ci fermiamo. Voi continuate con i vostri messaggi al 349-238-6666. Stavo intanto leggendo con l'altro occhio i messaggi. Sulla pagina Facebook di Effetto Notte i vostri commenti. Tra poco parleremo anche appunto della coppia Brad Pitt e Angelina Jolie. C'è per esempio Elena che dice: mi scusi, ma se la polizia ha smentito questa diventa una non notizia e comunque non esistono i semidei, perché appunto che facevo è la caduta dei semidei, parodiando il titolo di un bellissimo film, e ne parleremo tra poco. Sono Giovanni Minoli e lunedì 26 settembre torno con Mix 24 con Mario Sechi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Tecnologie, logistiche di magazzino, Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie, ne abbiamo parlato finora, riassunto della giornata, e se state ascoltando Effetto Notte naturalmente siete al posto giusto, nel momento giusto e con la giusta conduttrice, anche Roberta Giordano con voi. Adesso passiamo a un altro tema, dopo aver affrontato alcuni argomenti di politica, tra cui il Fertility Day e anche il Day After, il no alla candidatura delle Olimpiadi 2024. I vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche al 349-238-6666, il numero per gli sms e per i whatsapp. Per esempio c'è questo ascoltatore, Carlo Saverio, che dice: 375 volte che ho aspettato l'autobus a Roma durante la pioggia o con il sole cocente, per 375 volte in decine di fermate non ho trovato una pensilina di protezione. Roma senza pensilina alle fermate, autobus, dice, vogliono fare le Olimpiadi. Brava Raggi, ha fatto bene. Poi un altro ascoltatore o ascoltatrice non si firma, dice: assurda e fascista questa propaganda nell'Italia super popolata a proposito del Fertility Day. Mentre Stefano sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: definire razzista tutto l'opuscolo è sbagliato, è la foto iniziale fatta in maniera cialtronesca che poteva dare questa impressione, non difendo l'opuscolo, le foto di cui si parla era imperdonabile, ma cercate di dare un'informazione corretta anche voi. Certamente abbiamo detto che sulla copertina di uno degli opuscoli c'era questa immagine, tanto è vero che ha scatenato polemiche a partire da ieri. Il web poi si è veramente scatenato su questa cosa, proteste di piazza anche oggi ci sono state, la stessa ministra Lorenzina ha detto che questa campagna non le è piaciuta per niente, addirittura ha rimosso il direttore della comunicazione, quindi figuriamoci, questa è l'informazione che stiamo dando. Tra poco vi dicevo un altro tema, però intanto vi ricordo le notizie principali. Roma, dopo il no alle Olimpiadi, tutti soddisfatti per Euro 2020, il numero uno del CONI, ma la GOFA il baciamano alla sindaca Raggi. Fertility Day, polemiche, web scatenato sulla nuova campagna, la ministra Lorenzin va al contrattacco, non è piaciuta neanche a me, ma molti vogliono il mio posto. Italicum, Renzi a 8,5, pronto a cambiarlo, dice, qualunque sia la decisione che prende il Parlamento. Stati Uniti, nuovi scontri a Charlotte con i manifestanti contro la polizia, accusata di aver ucciso ingiustamente un afroamericano. Intanto a Baltimora, agenti bloccano a terra un nero che poi muore. Guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, condanna dell'organismo internazionale per il commercio per gli aiuti a Airbus. Sicurezza, attacco hacker a Yahoo, violati 200 milioni di account, e poi la fine dell'amore. Jolie Pitt accusa Brad, ha aggredito i suoi figli in un aereo, la polizia però smentisce il sito TMZ che diceva che c'era un'indagine a suo carico. E ora proprio di questo parliamo, della fine della storia tra Angelina Jolie e Brad Pitt, una delle coppie più belle e invidiate al mondo, non solo quindi a Hollywood. E in realtà qualcuno dirà, ma questo è gossip. Non è soltanto gossip, perché noi come esseri umani non è che ci occupiamo e viviamo solo di politica, di economia e finanza, di vertici europei, di geopolitica, di cronaca nera. Insomma, anche la vita di relazione ci tocca, anzi ci tocca molto da vicino, e spesso quella degli altri diventa anche quella degli altri, persone, fatti concreti, entra nel nostro immaginario collettivo e diventa anche a volte un'aspirazione più alta, un modo per distrarsi, diciamo così, dagli affanni quotidiani, un modello a cui ispirarsi, a cui aspirare. E con loro, per molti, insomma, con questa fine di questa storia finisce in realtà tutto un mondo, questo sogno a cui molti guardavano quasi come fosse, non so, vicino alla perfezione, alla quasi perfezione, no? Illudersi che esista. Invece quando poi anche una cosa così tanto idealizzata e ammirata finisce, un po' dispiace, un po' ci si rende conto che alla fine anche queste persone che vivono con altri tipi di fortune, di soldi, di bellezza eccetera, alla fine hanno un'umanità abbastanza simile a quella di tutti gli altri. Tra l'altro è una storia che parrebbe finire in modo particolarmente triste, perché c'era stata questa indiscrezione del sito americano di gossip TMZ, che aveva detto che Pete era indagato anche per maltrattamenti. C'erano stati anche dei testimoni nei confronti dei figli, in particolare si riferivano a un fatto accaduto sul jet personale durante un viaggio. E mentre stasera poi la polizia di Los Angeles ha smentito. Ma vorrei che facesse un commento su tutta questa vicenda il direttore del settimanale Oggi, Umberto Brindani. Buonasera. Buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori. E tu come, cioè, il fatto, per esempio, Adele, mi viene in mente la cantante, no? Che è una delle più quotate al mondo, delle più ricche, ammirate, eccetera. Ieri ha dedicato parte del concerto alla fine di questa coppia, perché dice questa cosa l'ha addolorata, ed è una cosa evidentemente di... Che cosa ci succede a noi leggendo queste cose? Beh, sai, innanzitutto volevo commentare la piccola premessa che hai fatto. Il gossip, se preso in dosi non massicce, diciamo... non fa male, anzi ci sono addirittura degli studi che dicono che il gossip ci fa vivere meglio, perché appunto il gossip è anche il gossip sul vicino di casa. In questo caso abbiamo, come tu giustamente dicevi, la coppia perfetta, erano la coppia perfetta, la coppia ideale, stavano insieme da 12 anni, hanno sei figli, tre biologici e tre adottati, una vita fantastica, missioni umanitarie nei campi profughi, insomma sembravano proprio il ritratto, la concretizzazione della coppia dell'ideale perfetta. Idealizzato in sé. Poi si scopre che ci sono invece dei segreti anche in una coppia come questa, che poi alla fine fanno scoppiare tutto. Ma secondo te, per esempio, questa, allora, ci sono, ho visto anche prima agenzie che smentiscono, qualcuno che dice questa notizia è arrivata fino all'FBI, secondo te che cosa c'è per quello che... Sì, c'è questa, guarda, questa è una cosa tipica di quando ci sono alcune separazioni, insomma, che uno dei due possa venire accusato addirittura di aver, in un primo tempo si parlava addirittura di abuso sui minori da parte di Brad Pitt, sì. Una cosa che credo non stia né in cielo né in terra, poi... diciamo più, come posso dire, più ragionevolmente si è parlato del fatto che lui in aereo, nel loro aereo privato, ha dato in escandescenze e ha messo le mani sui figli. E lei proprio il giorno dopo, Angelina Jolie, ha chiesto il divorzio. Esatto, no? Esatto, e questo secondo alcuni sarebbe stata la molla che ha fatto scattare la decisione di Angelina Jolie di avviare le pratiche di divorzio. In realtà non c'è niente di vero in tutto questo, perché... le pratiche di divorzio non si avviano da un'ora all'altra. Evidentemente diciamo. Già si preparava questa cosa, però Angelina Jolie nella dichiarazione che ha fatto due giorni fa diceva che c'erano problemi di scatti di rabbia e di abusi di alcol e di droga. Ecco, di questo parlavo infatti quando poi si vanno a scoprire le cose private, le cose che poi vengono tenute nascoste. A quanto pare il bellissimo attore americano è uno che ama bere, è uno che ama fumare marijuana, fuma erba, non si parla di droghe pesanti, e a quanto pare è una persona che in molte circostanze tende, come dire, a perdere le staffe. Anche se c'è un'altra scuola di pensiero che invece, come dire, propende a favore di Brad Pitt, nel senso che anche Angelina Jolie non è l'angelo sceso in terra, ha un passato molto turbolento, fatto anche di droghe pesanti, fatto di eroina, fatto di ecstasy, fatto di cocaina, un passato dal quale evidentemente sembra essersi liberata, però anche Angelina Jolie, secondo quest'altra scuola di pensiero, non è in nessun modo, come posso dire, una compagna, una moglie facile e accomodante, insomma. Quindi ci sono quelli a favore di Brad e quelli a favore di Angelina, come in tutte le storie, come in tutte le separazioni. Già, i due partiti. Adesso vedremo nei prossimi giorni quali altre cose emergeranno. Intanto grazie Umberto Brindani, direttore di Oggi. Grazie a te. Ciao Umberto, buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo adesso in pochi secondi, le più importanti: l'incontro Malagò-Raggi oggi per gli europei, lei si è detta orgogliosa di ospitarli nel 2020, baciamano di Malagò e anche gelo, Malagò ha detto il piano B comunque non si farà per le Olimpiadi 2024, Renzi a 8 e mezzo, ha parlato di molte cose e sull'Italicum ha detto pronti a ogni cambio deciso dal Parlamento. E poi Fertility Day si è celebrato oggi con tutta la scia di polemiche, la ministra Lorenzina al contrattacco dice molti vogliono il mio posto, comunque è una campagna che non è piaciuta neanche a me. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Apriamo il dossier energia che sta arrivando a completarsi con gli ultimi capitoli che porteranno al mercato energetico europeo. 65 anni dopo l'avvento della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, l'Europa è pronta a fare un altro balzo in avanti. Parole chiave: interconnessione tra stati e diversificazione delle fonti. Fino ad oggi ogni stato membro ha applicato le proprie norme e i propri mix energetici e troppo spesso i cittadini e i consumatori si trovano svantaggiati nel mercato libero dell'energia. Per questo motivo il Parlamento Europeo sta lavorando per l'istituzione dell'Unione Energetica. Da dove partiamo? L'Unione Europea è il più grande importatore di energia al mondo, importando il 53% del suo fabbisogno, per un costo annuale di circa 400 miliardi. 12 stati su 28, fra cui l'Italia, non rispettano l'obiettivo minimo di interconnessione, pari ad almeno il 10% di capacità di produzione di elettricità da poter distribuire ai vicini, fissato per il 2020. Se saranno realizzati i 137 progetti già individuati dalla Commissione, gli stati che non rispettano il target si ridurranno a 2. Secondo Bruxelles, una rete adeguatamente interconnessa permetterebbe un risparmio per i consumatori europei fino a 40 miliardi all'anno. È stato già definito il progetto europeo più ambizioso in questo importante settore dai tempi della Comunità per il Carbone e l'Acciaio. Ne parliamo con l'europarlamentare Massimiliano Salini. Buongiorno. Allora, ci aiuta a capire qual è l'obiettivo finale e a che punto siamo per raggiungerlo? Ma l'obiettivo finale pare sia, e dico pare perché a volte si fa fatica a riscontrarlo nelle decisioni, pare sia quello di decarbonizzare, quindi togliere potenziale in termini di inquinamento nella produzione di energia e al contempo fare in modo che l'Europa sia un po' meno dipendente dall'esterno nelle forniture. In questo momento stiamo esasperando il tema ambientale, dimenticando che siamo già ampiamente i primi nella classe del mondo, producendo poco più del 10% della CO2 prodotta a livello mondiale, e stiamo morendo di ossessione di autonomia, creando le condizioni perché invece di far pagare poco la bolletta agli europei, cerchiamo di risolvere problemi geopolitici alle loro spese. Infatti uno dei temi caldi è certamente il costo sempre più alto dell'energia. Le faccio una domanda a tal proposito che arriva dall'Associazione dei Consumatori. Come si tradurrà questo progetto in termini di risparmio per i cittadini? In altre parole, ci saranno tagli in bolletta? Ma guardi, io me lo auguro, ma al momento ho la sensazione che l'ultimo effetto che questa politica energetica produrrà sarà un risparmio in bolletta. Produrrà tanti effetti positivi, lo ripeto, saremo ancora più puliti nella produzione di energia e avremo qualche livello di autonomia in più dalla Russia o dal Medio Oriente e quant'altro. Ma il problema è che tutto questo viene fatto senza considerare, da un lato, che la domanda di energia in Europa, complice la crisi economica, è calata, e quando cala la domanda è inevitabile che si alzino i prezzi. E il secondo elemento è che paesi come l'Italia continuano a mettere nella bolletta dei cittadini e delle imprese un sacco di tasse. Ancora oggi in Italia più di un terzo della bolletta non è costo energetico puro, ma tasse. U-Zone, Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E ora parliamo di questo maxi attacco piratesco a Yahoo, società fornitrice di servizi internet famosissima, che avrebbe violato informazioni per centinaia di milioni di persone. Ne parliamo con Alessio Pennasilico, esperto di sicurezza e membro dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Leggo tra l'altro, Pennasilico, che sospetti su stato straniero dietro questo cyberattacco? Sì, è una delle illazioni che sono state fatte recentemente di Yahoo, che deve ancora essere confermata tutto sommato. Addirittura, sento, Stati Uniti ha hackerato il passaporto di Michelle Obama, non so se rientra in questa cosa, ma sugli utenti normali come noi cosa comporta questo? Beh, sicuramente quando vengono rubate una tal quantità di nomi, utenti e password, è possibile sia leggere il contenuto di tutte le mail conservate da questi utenti, ma soprattutto utilizzarle per fare altre truffe, per esempio scrivere a tutti i contatti degli account violati a nome della persona proprietaria di quell'indirizzo email, ad esempio chiedendo soldi o inviando virus per email, quindi altre truffe. Questo è successo nel 2014, perché Yahoo dà notizie adesso? Sicuramente c'è stato un attacco di una certa complessità, è servito il tempo per rendersene conto e scovarli. Soprattutto prima di dare una notizia del genere, che avrà un impatto anche sul costo delle loro azioni, evidentemente devono aver fatto delle indagini decisamente approfondite. Grazie Alessio Pennasilico, il tempo era purtroppo poco, ci risentiamo alle 22 per gli aggiornamenti.